Martedì, terza settimana, Vespri. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Accogli, o Padre buono, il canto dei fedeli nel giorno che declina. Tu, al sorgere della luce, ci chiamasti al lavoro nella mistica vigna. Or che il sole tramonta, largisci agli operai la mercede promessa. Da ristoro alle membra e diffondi nei cuori la pace del tuo spirito. La tua grazia sia pegno della gioia perfetta nella gloria dei santi. A te sia lode, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Prima antifona. Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. I monti cingono Gerusalemme, e il Signore è intorno al suo popolo, ora e sempre. Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi sul possesso dei giusti, perché i giusti non stendano le mani a compiere il male. La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore. Quelli che vanno per sentieri tortuosi, il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. Pace su Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre. Seconda antifona. Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Terza antifona. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono. Tu sei degno, o Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Lettura breve. La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Responsorio breve. La tua parola, Signore, rimane in eterno. La tua parola, Signore, rimane in eterno. La tua fedeltà per ogni generazione rimane in eterno. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. La tua parola, Signore, rimane in eterno. Antifona al Magnificat. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva.